Il punto di Stefano Folli. Come previsto, l'abdicazione clamorosa del Papa ha alterato, in buona parte oscurato, una campagna elettorale incapace comunque di reggere la scena se non per sterili polemiche. Adesso si parla in prevalenza delle incognite in Vaticano, che sono tante, delle imitazioni di Crozza a Sanremo, se ne parla molto, al punto che non si parla quasi più delle canzoni, ma ci sono. Naturalmente si parla con inquietudine dell'inchiesta giudiziaria che travolge Finmeccanica e poi dell'intreccio politico-giudiziario che pesa sulla Lombardia e potrebbe influenzare il voto per la regione. Insomma, si parla di tutto, tranne che dei temi veri del prossimo governo del paese, ma non è colpa della cronaca che rompe sul palcoscenico, ed è merito di chi dovrebbe essere protagonista e invece dimostra di avere ben poco da offrire agli italiani.